Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Corrado Giustiniani. Buonasera. Corrado Giustiniani, giornalista, saggista, è stato per 25 anni inviato speciale del Messaggero, collabora all'Espresso, al Secolo XIX, è titolare di un blog sui nuovi italiani e ha scritto un libro che si intitola Dinosauri, che non è un libro di biologia animale, non è un libro di archeologia storica, ma che cos'è, Corrado Giustiniani? È un libro che tratta della stazza mastodontica dei nostri dirigenti pubblici che guadagnano molto, ma ai noi, per i cittadini, rendono poco. Nessuna riforma ci libererà dai super burocrati di Stato, questo è il sommario del libro, è un libro edito da Sperling e Kuffer e il primo capitolo è La grande abbuffata. Ecco, non li prendi bene questi super burocrati, Giustiniani? No, perché questa grande abbuffata tra l'altro è iniziata dalla fine del secolo scorso, perché prima i dirigenti pubblici non guadagnavano molto e fino agli anni 80 io raccolgo le dichiarazioni di un dirigente di prima fascia di oggi che dice che nel suo ufficio praticamente la segretaria guadagnava la metà del dirigente e questo era un po' poco effettivamente e bisognava alzare queste retribuzioni per ragioni di dignità, di dare una responsabilità effettiva alle persone, una soddisfazione lavorativa e anche tenerli lontani così da tentazioni corruttive per così dire. Certo. Beh, poi c'è stato questo boom retributivo invece favorito devo dire dai governi di centrosinistra, di D'Alema e Amato. Non è che a 20 anni da allora possiamo dire che le tentazioni sono state messe da parte, la corruzione è stata debellata, eccetera. Quindi le altre retribuzioni, perché abbiamo le retribuzioni dei nostri dirigenti pubblici, sicuramente l'OCSE ha detto nella fine 2013 le più alte del mondo. Sicuramente oggi, nonostante il tetto Renzi, le più alte d'Europa, però sono attribuzioni che non rendono al cittadino, che non garantiscono servizi migliori, con premi di risultato dati a tutti, praticamente a livello massimo, come dice uno stesso studio dell'autorità anticorruzione. Quindi c'è molto da lavorare su questo. Ecco, quindi sono retribuzioni non legate al merito, non legate alla capacità, non legate ai risultati, retribuzioni appunto burocratiche. Assolutamente. Racconterò, per non raccontare una cosa dei misteri, ma racconterò un particolare della regione toscana. Nella regione toscana il premio, si chiama premio di risultato, il premio di produttività, quello che dovrebbe essere dato se uno fa bene il proprio lavoro, uno degli indici per darlo ai dirigenti era ridurre il consumo cartaceo, ripeto, del 5% da un anno all'altro, non del 50, del 5%. Questo mi sembra che un esempio, tutti hanno il premio risultato, todos caballeros, tutti sul podio e i risultati sono questi, risultati veri. Ecco, e poi è una realtà che si riverbera poi anche sul sistema pensionistico, perché ad alte retribuzioni corrispondono poi altre alte pensioni, le pensioni d'oro sono in gran parte dei super burocrati. Assolutamente, sono dei super burocrati che, ripeto, hanno vissuto veramente 15 anni d'oro, dal 98 ad oggi. Adesso sono anni in cui la gente ha tirato la cinghia, loro con questi soldi doppiati da pensioni eccetera hanno potuto comprare immobili a prezzi ribassati e quindi è un'ingiustizia, è stata una vera e colossale ingiustizia non legata alla produttività. Ma tu parlavi di pensioni e retribuzioni, beh, posso dire una cosa che c'è nel libro che forse non è stata ancora detta? Anticipiamo. Cioè, anticipiamo. Il governatore della Banca Italia, Ignazio Visco, oltre alla retribuzione gode anche di pensione. Presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Chiscuolo, oltre a una retribuzione veramente ampia, i giudici costituzionali italiani hanno le più alte retribuzioni del mondo, qui non c'è contestazione, gode anche di pensione e questo mentre invece una direttiva del governo del dicembre scorso che è entrata in vigore proprio ai primi mesi di quest'anno, dice che il dipendente pubblico non può doppiare pensione e stipendio. Beh, questo appunto dovrebbe essere una realtà del fatto che chi lavora guadagna per il suo lavoro, la pensione poi serve in anni in cui non si riesce più a lavorare, però ecco, le regole molto spesso sono fatte per essere rigidamente osservate, se c'è una regola che consente certe cose uno si sente in dovere di rispettarla. Ecco, un'altra categoria che è presa di mira nel tuo libro sono gli ambasciatori. Gli ambasciatori sono forse una categoria privilegiata, anche se è una categoria abbastanza chiusa. Una categoria abbastanza chiusa, gli ambasciatori veri e propri, quelli proprio che hanno il titolo di ambasciatore, sono soltanto 24 su 900 diciamo appartenenti alla diplomazia. La gran parte delle nostre ambasciate sono rette, ne abbiamo 127 in giro per il mondo, sono rette da ministri plenipotenziari che però godono degli stessi benefici dell'ambasciatore. Io inizio questo capitolo con una cosa abbastanza sconcertante, cioè che l'attuale ambasciatore di Bruxelles va in giro per la capitale del Belgio con la sua Rolls Royce, che è un po' una cosa strana rispetto ai momenti in cui il paese sta attraversando. Beh, a Tokyo il nostro ambasciatore guadagna 27.000 euro netti al mese, a Washington 24.600. Più ovviamente l'uso dell'abitazione, che poi sono abitazioni molto prestigiose. Non solo l'uso dell'abitazione, scusa se interrompo, ma più anche i rimborsi spese. Certo. Cioè non si deve pensare che in questi soldi ci siano il costo di cocktail organizzati, quelli sono pagati a parte. Certo. È tutto un netto, e addirittura con una maggiorazione per i figli che vengono a trasferirsi lì, a benefici per la scuola, eccetera, eccetera. Nessuna spesa viva, diciamo. Ecco, poi ci sono altri elementi come il fatto di compensare chi fa il suo dovere, per esempio chi vince delle cause viene ricompensato con un onorario aggiuntivo. Questo è una prassi che, ricordi, in questo libro risale al Granducato di Toscana. Ah, questo sì, siamo passati quindi a un'altra categoria privilegiata, e che è quella degli avvocati pubblici, degli avvocati dello Stato in particolare, che adesso, per la verità, il governo Renzi l'estate scorsa ha dato una mazzata, perché ha dimezzato gli onorari in caso di vittoria piena con recupero delle spese, e invece niente onorari se il giudice decide che le spese, seppure in una causa vittoriosa, vanno compensate tra le parti. Prima gli avvocati dello Stato le prendevano tutti, invece gli altri avvocati pubblici, e cioè quelli del parastato, INPS, INAIL, gli avvocati delle regioni, gli avvocati dei comuni, non sono stati toccati negli onorari, e quindi hanno questa caratteristica gli avvocati pubblici, che non hanno costi di segretario, non hanno la necessità, l'urgenza e anche l'abilità, devono mostrare di procurarsi dei clienti, perché questi gli piovono dal cielo, e quindi prendono anche gli onorari, cioè sono stipendiati e in più hanno gli onorari, che è una bella soddisfazione. Ecco, in questo caso si parla molto di trasparenza opaca, cioè di una trasparenza che dovrebbe essere effettiva, che però poi in realtà non c'è. E peraltro anche comunque qualcosa si è fatto negli ultimi tempi. Hai parlato di questo decreto Renzi, che ha stabilito il tetto di 240.000 euro all'anno come limite, poi dopo come tetto ha avuto anche qualche eccezione. Comunque qualcosa si è fatto per contenere questo fiume di denaro. La trasparenza sotto questo aspetto sarebbe mettere sui siti le retribuzioni di tutti i dirigenti. L'Agenzia delle Entrate, per esempio, non lo fa, mette una griglia generale, e il conto della tesoreria dello Stato praticamente mette dei valori stipendiali lordi superiori a quelli che appaiono sui singoli siti. Ma trasparenza è anche un concetto più vasto, che poi ci porta a parlare di corruzione, e cioè la trasparenza comporta un nuovo modo di fare le leggi, cioè sì, di farle più chiare, con linguaggio divulgativo, e lì ci furono due tentativi, uno fatto da Sabino Cassese quando era ministro nel 93, che fece un codice di stile che doveva appunto dire a prescrivere ai capi degli uffici legislativi, a chi prepara le norme, quali sono le parole da usare, c'era anche un dizionario del linguista Tullio De Mauro allegato, poi ci riprovò Bastanini con un manuale addirittura di stile, ma tutto è andato, le leggi sono scritte male e questo ovviamente favorisce chi riesce a farle violare. Certo, e poi c'è anche una trasparenza appunto difficile, perché lo dimostra, come spieghi nel libro, anche la commissione Giovannini insediata nel 2011 per verificare appunto e portare alla pubblica opinione il trattamento economico dei titolari di cariche elettive, che concluse i suoi lavori dicendo che non era possibile avere dei dati certi, reali e chiari. Dagli altri paesi non era, perché il governo Berlusconi aveva chiesto a questa commissione di misurare le retribuzioni, diciamo, dei parlamentari, anche dei dirigenti italiani eccetera, con quelli degli altri paesi, però effettivamente non sono misurabili al 100%, perché alcuni hanno indennità che i nostri, certo, non ne hanno, altri, e quindi questa commissione, diciamo, si dimise dicendo: un confronto scientifico non è possibile. Se volete delle ipotesi realistiche ve le faccio. Ecco, concludendo, Giustiniani, comunque la realtà è quella di una giungla, nella giungla ci sono i dinosauri, qualcosa comunque si sta facendo, parlare di queste cose è sicuramente positivo. Sì, e poi adesso c'è una riforma proprio in queste ore in discussione al Senato della pubblica amministrazione, che investe pesantemente anche i dirigenti pubblici con minori, con incarichi, diciamo così, più volatili, che poi la riforma va meditata, e quindi la speranza è che... Vedremo come sarà, magari in un prossimo capitolo, Dinosauri 2. Grazie a Corrado Giustiniani di averci parlato del suo libro. Vi ricordo, Dinosauri, edizioni Sperling e Kuffer, sono 206 pagine per 17 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.